tu ascolti silenzio, tu coltivi parole, accarezzi le corde della mente e del cuore, condividi la luce che illumina gli occhi, tu conservi la chiave che porta all'amore. Tu ascolti la vita che scorre, tu rincorri il suono del vento, ne intrecci note su note, componi una nuova canzone. E questo è il segreto del mondo, parlare all'anima e al cuore, viaggiare su fili sospesi, trovare la via dell'amore. Tu racconti i sentieri del tempo, tu conosci la memoria del dono, tu di notte parli a una stella, la tua mano si apre al perdono. Cielo e terra si tengono per mano, giorno e notte si baciano ancora, soffia il vento, accompagna i viandanti, benedice le anime erranti. E questo è il segreto del mondo, parlare all'anima e al cuore, viaggiare su fili sospesi, trovare la via dell'amore. Fai parlare il silenzio, fai tacere le parole, come aprire una finestra, fai entrare in me il sole, come un sogno di bambino. Vorrei averti vicino, io ti cerco, ma tu dimmi dove sei. Tu conosci l'amore, tu comprendi il dolore, tu percorri le strade del mondo, tu mi tocchi nel mio profondo, tu mi chiami accanto a te. E questo è il segreto del mondo, parlare all'anima e al cuore, viaggiare su fili sospesi, trovare la via dell'amore.